Vabbè. Ormai possiamo far così 10 minuti. Sì, no, come 10 minuti? Vedi, cresce minuti. Tutto. Questo è la logica dei loops. I loops che fanno partire il groove del venerdì. Quindi a questo. Sì. Ci aggiungiamo una cosa che si chiama beat loop. Vabbè, ormai lei già. Questa no, aspetta, adesso mille spiego, volte. Ma sì, ma questo è un tutorial. Tutorial del venerdì. Se non si vede, poi non sanno nemmeno. Ma a me non importa, ma si immaginano, no? Adesso ci sono. Questo, il primo. Si chiama Shimmer. Shimmer. Quindi diciamo Shimmer e più. Poi c'è un beat loop. Adesso beat ci aggiungiamo un bassline che fa. Sarebbe la linea del basso. Venerdì. Senti già come pompa, sì, il venerdì. Pompa molto alla chic. Adesso mettiamo un mover. Un. Mover che ti muove, no? Senti come ti muove. Vabbè. Verso il ritmo del. È un po' controtempo, giusto? Io direi che facciamo i prossimi 10 minuti così. L'avevo già detto. Ecco, dai, via. Sapevo. Ok. Vabbè. Buon ascolto con il groove del venerdì. Cazzo, le pile. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da capo del venerdì. È un saluto da Drago, quindi dopo il lupo del martedì abbiamo detto, no? Il coccodrillo del mercoledì. Abbiamo detto il gatto forse del giovedì. Giovedì, cioè, il gatto quello che allora, allergenico. Allergenico, c'è il. C'è il. Allora. Cosa? Qual è l'animale totem del venerdì? Cos'è? Ma no, ma il venerdì è fuori dal concorso. Come ma non ci sono mica animali totem non del venerdì. Non c'è l'animale totem. Ma no, e venerdì è esso stesso un animale totem. No, vabbè, ma venerdì non è un animale, cosa dici? Ma vabbè, ma il venerdì ti trasforma in un animale, no? Cioè, ti trasforma, a me no. Un animale da aperitivi. Sì, da happy hour. Ma che animale da happy hour? Qua secondo me la batteria, se io attacco, perché non si può fare venerdì senza il groove del venerdì. Che tu, se fossimo in assenza di smartphone, dovresti riempire tu il sottofondo facendo vai, ecco, così. No, non è così, fallo bene. Così venerdì. Allora, oltre agli aperitivi, l'happy hour, non so, se sei un animale da pasta scotta, sì, e bruciore di stomaco. Venerdì. Che l'happy hour sono delle robe tremende. Brucia. Tra l'altro, stomaco, hanno fatto delle analisi, sì, e il grado di infiltrazione batterica in quelle cose dove mangiano tutti, sì, è terrificante. Beh, ma non bisogna se fare andassi quelle a raschiare, no, non so, a raschiare il no, water raschiare dello niente, stesso locale, no, sarebbe più sano. Ma, insomma, quindi, ragazzi, godetevi un bel venerdì. Tutti con la testa nel water. Questo è molto divertente. Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Oh, would you rather be a bureau? Si è saputo da poco che 600 bambini nati nel dopoguerra in Inghilterra hanno tutti lo stesso padre biologico, un certo dottor Bertold Wiesner, o Wiesner, sì, perché era austriaco. Super donatore, sì. Perché lui si vergognava di cercare i donatori, quindi faceva da solo. Beh, la clinica era la sua, insomma. Sì, ma sua moglie si lamentava, la sera arrivava sempre a letto stanchissima, Cioè, si addormentava di botto. Per forza. Stava tutto il giorno in laboratorio a lavorare. Insomma. A lavorare, un bel lavoro. Comunque, ormai il danno è fatto e pare che la famiglia voglia in qualche maniera ricongiungersi con tutte le difficoltà del caso. Ricongiungersi? Sì. Ma sono 600 persone. Sì, lo so. Ci va uno social network, uno stadio ci va. Ma tu pensa, se avessi 600 fratelli biologici, tutti che ti assomigliano un po', sia fisicamente, sia forse anche nel carattere, non ti verrebbe voglia di conoscerli tutti, uno per uno? Ecco, proprio la storia di due pesciolini così, che si chiamano Félix e Léon, sta facendo discutere la Francia, perché questi due pesciolini, un pesce gatto e un pesce luna, sono due maschietti, eppure nel cartone animato che viene distribuito nelle scuole francesi si baciano tra maschietti. Ecco, sapete perché hanno fatto questo cartone animato? Proprio per abituare i bambini dell'elementare all'idea che l'omosessualità è una cosa normale. capirai che novità, c'erano già Batman e Robin. Vabbè, ma quello non è vero, è un gossip. Ma che gossip? Batman e Robin non hanno mai fatto coming out. Ma non è un gossip, lo sanno tutti, Drago. Batman e Robin sono super icone, super gay, icone gay, capito? To the Batmobile, let's go. Icona gay. Uno dei due ha scritto anche una biografia, Robin, sì, che si chiama Man in Tights, eh? Cioè l'uomo in calzamaglia, e la copertina del libro è il suo costumino verde con in bella evidenza il piccolo Bat Pisello, insomma, capito? Piccolo, insomma, quello che si vede, è molto in primo piano, quindi non si riesce a fare il discorso della proporzione. Ho capito, ma se vedi, no, non vedi il contesto, ti capito? Chissà che cosa. Oh, e adesso chi è? No, ahia. Pronto? Pronto? Sono Batman. Ciao, no, scusa, no, ma la copertina era quella di Robin. No, infatti. No, ma figurati. Ciao, cara. Ciao. E ora, bambini, ricreazione. Io te l'ho detto che se ne accorgevano. Ma di cosa? Ma cosa? Il cambio di bidello qua, vabbè, ha scatenato delle reazioni. È arrivata un'audiolettera su questo argomento. Come? È un'audiolettera su internet. E chi è che ce l'ha scritto? Non lo so, un anonimo ascoltatore siciliano, dice. Sembra siciliano. Cari Gappa e Drago, vi devo confessare che mi avete dato una grossa delusione. Quando parlano a così me fa un po' paura. E alla mia famiglia. Ecco, ci mancava la famiglia. Ma come? Cosa? Mi pareva che fossimo stati chiari rispetto a chi doveva sostituire il bidellogino. Questo qui è quello chi? Che aveva mandato. Ti avevamo proposto il meglio virgulto della nostra stirpe. Il bocciolo prediletto della nostra pianta. Il frutto prelebato del nostro seme. Mi pare che le referenze che vi avevamo fatto recapitare fossero, come dire, convincenti. Io non me le ricordo. E invece, che cosa devo venire a sapere? Cosa? Che? Che il posto lasciato vacante dal suddetto Gino è stato incautamente assegnato al primo scimunito che passava. Non è scimunito, che... Avete preferito il suo cristiano che non parla neanche bene in italiano, bisogna assumere, ma si fa capire bene quando un po' sfortunati. No? Che peraltro maltratta pure i bambini. No, ma... E noi su queste cose abbiamo un rigidissimo codice d'onore. Chi si permette di toccare i bambini, noi ci scippiamo i cugghiuni e ci facciamo agghiuttere. Ora, non mi voglio alterare. Come dicono i parrini a messa, scambiamoci un segno di pace. Vi manifesto addirittura la mia solidarietà per gli spiegabili fenomeni di autocombustione che hanno interessato le vostre automobili. Ecco. Però vediamo di evitare di fare altre minchiate. Comunque io ho capito. Menza parola, ecco. C'è il gatto. Questo qui alla fine sai chi è? Sai chi è questo? Tony Landolina, alias Tony Landolfini. Quindi non c'è da aver paura. Landolfini, va che è inutile che mascheri la voce e calchi l'accento siculo. Si sente che sei tu. Vergognati! Mandare minacce via MP3. Meriti di finire come la vitola. Cioè pieno di soldi ai Caraibi, ho capito. Sì, ma poi dopo in galera. Sì, ma prima pieno di soldi ai Caraibi. Sì, ma poi dopo in galera. Ho capito, ma prima. Sì, ma poi dopo in galera. Puoi anche finire in galera direttamente, no? Senza passare dai tropici pieni di soldi. Ma poi dopo in galera. Venerdì. Direttamente così qui non sai. Perché non è che vedi, possiamo anche fare Stranger, una strofa cantata. Sì. Ci sto pensando da un po' no, di tempo, tipo dai, fare venerdì. Qua la Michael Jackson. Però c'è l'ottava alta. Dove fare? E quindi siamo ai ringraziamenti del venerdì che coinvolgono. Venerdì. Non se lo ricorda. Pietro La Corte. Venerdì. Fabio Cantadori. Laura Faccini. Chiara Minieni. Alberto Caserini. Salvatore Iorio. Maria Grazia Guzmano. E chi altri ancora? Guido Bertolotti, anche se non ce lo ringraziamo sempre. Niccolò Budini. Budini, venerdì. E per il resto ci risentiamo quindi lunedì. Venerdì. Venerdì, adesso c'è la pasta scotta, aperitivo, sì. I batteri, la testa nel water, tutto qua. Tutto il campionario, il kit. Il kit del venerdì. Devo fare il contrario. Venerdì. Venerdì. Venerdì. Venerdia. Ia ia. Oh. Venerdia. Oh. Ia ia. Oh. Venerdia.